perdersi in questa città, sentirsi altrove mi perdo, cercando l'amore, con strane parole, di porte troppo chiuse, o tombe troppo aperte. Non suono il violino sull'alba di Parigi, io non esisto più. Il sole sorge alle mie spalle, ti chiedo se lui ha un cappotto. In un giorno grigio come voragini, da cui vorresti uscire ed entri sempre. Vicino alle sponde del vecchio fiume, rimango a guardare l'aldilà. Ho le riviste sfogliate dai polmoni del vento. Non ti vedo dal 98. Ti ho vista ieri notte al bar. Immagina di vivere come un re un giorno. Disegno strade che non percorrerò mai. La sera passa e tu sei sul balcone. Quante volte t'ho giudicato, quante volte ho sputato nelle tragedie sul binario. Passo in questa città senza essere visto. Passo tra tutto quello che non vorrei. Ma mi appartiene, oh, io appartengo al mare. Passano eserciti, uomini e cose. Passano di sopra di odore e rosa. Passano donne che disegnano e morti che non vivranno mai tutto. Fidarsi è bene, la ragazza della stazione è meglio. Non ti vedo dal 98. Ti ho vista ieri notte al bar. Non ti vedo dal 98. Ti ho vista ieri notte al bar.